Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Beh, insomma, c'è di che parlare. Vi dico subito che l'annunciato approfondimento sui finanziamenti o i tagli ai finanziamenti della scuola, alla luce anche del rapporto della Fondazione Agnelli, slitta inevitabilmente a domani, ma faremo il possibile per mantenere almeno questa promessa. Perché? Perché oggi è successo un po' di tutto in borsa. Non tanto l'indice, che perde il 2,2%, che comunque il calo è pesante. L'Italia sta perdendo mezzo punto almeno in più rispetto alla media, nel senso che Parigi perde l'1,80, Francoforte l'1,3, Londra l'1,2, e noi siamo di quasi un punto in realtà superiori come calo. Perché? Beh, il motivo si chiama Tenaris e sta crollando in borsa, il colosso dell'acciaio, meno 11%. A 15,17 euro. E poi c'è anche Telecom Italia, che per carità sta, dopo un avvio pesantissimo oltre il 5%, perde adesso il 3,5% a 1,52 euro. Qui c'è una notizia molto, molto più speculativa che su Tenaris. Cioè, Tenaris in sostanza ha annunciato vendite nette in calo del 32% a 8 miliardi di dollari e il risultato in flessione del 47% a 1,2 miliardi di euro, e questo ha abbattuto il titolo. Su Telecom invece c'è un caso un po' diverso, cioè ha rinviato la presentazione del bilancio del piano industriale, si è saputo appunto ieri in serata, ha avviato un'azione legale contro i vertici di Sparkle, e qui c'è la vicenda di cui ci siamo occupati anche ieri e di due giorni fa, cioè Fastweb, Silvio Scaglia, i vari avvisi di garanzia arrivati o richieste addirittura di arresto. Tra l'altro, di questo parleremo poi nella seconda ora, perché oggi il numero uno di Fastweb, l'amministratore delegato Stefano Parisi, era ospite questa mattina di Oscar Giannino. Vi faremo ascoltare alcune sue dichiarazioni, ci sono altri sviluppi, e comunque torneremo, lo dico già a chi scrive, sui temi della corruzione. Però, dicevo, Telecom ha rinviato il bilancio, ciò nonostante farà una conference call, quindi una conferenza con gli analisti alle 5:30, ecco perché ne parleremo subito. Detto ciò, ci sono anche altri titoli pesanti: Unicredit perde il 3,1, Pirelli pure, e anche Mediaset. Mediolanum perde il 2,80 come Prismian, Exor perde il 2,6 come Atlantia, Impregilo perde il 2,5, Buzzi Unicem il 2,3 come A2A, Finmeccanica ed Eni, Italcementi meno 2,1 come Enel. Il 2% lo perde Fiat e anche Fondiaria SAE, l'1,80 Generali e la Popolare di Milano. Bene, Luxottica più 1%, l'Automatica più 0,80, Mondadori più 0,4. L'euro è sotto pressione? Sì, ma non mi fascerei tanto la testa, siamo a 1,35,1, forse va a 1,34, ma insomma non mi sembra un livello preoccupante. E comunque di euro, di Commissione Europea, perché oggi si sono riuniti e ci sono arrivate le indicazioni anche sulla Grecia, visto che le agenzie di rating iniziano un po' a innervosirsi. Domani ne parleremo con le stesse agenzie di rating. Oggi la Commissione Europea ha diffuso le previsioni economiche intermedie e ne esce un'area euro in cui la ripresa economica è fragile, molto fragile, più 0,7% la media della crescita nel 2010. Se si va avanti con questi tassi, ci mettiamo 5 anni a recuperare il danno fatto nel 2008-2009, e di questo parleremo. Dopodiché, gli altri temi della giornata riguardano chiaramente anche le obbligazioni Enel, un vero e proprio successo: hanno chiuso l'offerta di obbligazioni ben prima delle attese, domande arrivate 5 volte superiori all'offerta, hanno dovuto aumentare anche l'offerta di obbligazioni perché era un'offerta per tutti i risparmiatori, portandole da 2 a 3 miliardi, a dimostrazione che si cerca una certa qualità nell'investimento. La borsa chiaramente spaventa, i titoli di Stato diventano addirittura meno appetibili delle volte rispetto alle obbligazioni dei grandi gruppi, come nel caso di Enel. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, le notizie in breve. dimenticavo Fastweb, avete ragione, il titolo è tra i peggiori in assoluto, meno 8,80%, le telecom media risparmio perdono il 4,90%. Beh, visto che ci siamo, io direi di passare subito a capire che cosa sta succedendo su Telecom Italia. Anzi, no, aspettiamo ancora un attimo. Non è pronto il collegamento, andiamo avanti intanto. Il petrolio a New York in calo a $78,6 al barile. Di Tenaris abbiamo già detto, vedo che molti di voi scrivono. Attenzione, è stata anche sospesa per eccesso di ribasso. E poi facciamo un po' arrabbiare chi ne ascolto. Allora, Royal Bank of Scotland, banca travolta dalla crisi, dagli investimenti scriteriati, dalla leva, dai prodotti tossici, dalla carta su carta, quello che volete, così travolta che è stata salvata da Londra, dallo Stato. 45 miliardi e mezzo di aiuti ha avuto la Royal Bank of Scotland, sono più di tre manovre finanziarie italiane e anche britanniche per salvare una banca. Escono oggi i conti del 2009, ha perso 4 miliardi e 100 milioni di euro, comunque meglio del 2008 quando arrivò a perdere 24 miliardi di euro, e siccome tra virgolette ne ha persi solo 3,5 di miliardi e non 24 di miliardi, che cosa avranno mai fatto i manager della Royal Bank of Scotland? Avete già indovinato, secondo me, si sono distribuiti 1,5 miliardi di euro di bonus, con i bonus e stipendi in aumento del 44%. Complimenti, complimenti, perché noi apprezziamo sempre quando appunto vengono date. Strano che comunque il governo britannico non abbia niente da dire, visto che 45 miliardi e mezzo li ha messi lui, cioè i cittadini britannici in Gran Bretagna, i soldi dei cittadini non si possono toccare tanto facilmente. Comunque, poi ci torniamo. Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, adesso è in collegamento. Buonasera, Antonella. Buonasera. Sei pronta per la conference call di Telecom? Diciamo per ascoltare, visto che non sì. È arrivata noi. No, ecco, adesso gliela buttiamo un po' a sorridere, perché oggi si è temuto il peggio. Perché inizialmente sembrava che Fastweb e Telecom viaggiassero assieme, adesso Fastweb perde il 9%, Telecom ha ridotto il calo a un 3%. Il motivo, una domanda molto semplice, è il rinvio del bilancio del piano industriale o le vicende legate alla magistratura, alle accuse della controllata Sparkle, e insomma il fatto che si dice Telecom era parte del, o si ipotizza che Telecom fosse parte del gioco del triangolo chiamato Carosello, che secondo l'accusa della divisione distrettuale antimafia di Roma ha portato all'estero 380 milioni di euro frodati al fisco? Io ti posso dare un'interpretazione. Cioè, la mia idea è che il motivo dell'andamento al ribasso del titolo è legato all'incertezza su che cosa stia succedendo e su quali possano essere le conseguenze di questa inchiesta. Perché il punto è che c'erano tanti argomenti su cui si stava ragionando, e tanto per cominciare vengono allontanati nel tempo, dunque, sia l'approvazione del bilancio sia l'aggiornamento del piano industriale sia, diciamo, quell'operazione, diciamo, che rimaneva dietro le quinte di possibile fusione con Telefonica. Io credo che questa situazione abbia determinato, abbia messo alla luce, diciamo così, un problema di sicurezza del traffico telefonico, al di là del fatto che le società fossero state coinvolte consapevolmente o inconsapevolmente, e fino a prova contraria diciamo inconsapevolmente, comunque hanno diciamo, le loro strutture sono servite da sponda per un'operazione di riciclaggio di stampo altamente delinquenziale. Quindi è un problema anche di sicurezza del traffico. Torna al discorso della sicurezza nazionale in qualche modo. E quindi mi chiedo, è mai possibile pensare che si possa a cuor leggero affidare una struttura sensibile come quella delle telecomunicazioni a un soggetto all'estero che per definizione non puoi controllare? Io cioè, penso che il discorso di nozze con Telefonico o con chiunque altro in questo momento si allontani del tutto. Ho capito il ragionamento. Era uno dei motivi che aveva sostenuto il titolo. Quindi. Sì, ed era però anche uno dei motivi che aveva sostenuto il governo per in qualche modo essere scettico sull'operazione telefonica. Cioè si dice la telefonia e la rete, soprattutto l'infrastruttura, è un in qualche modo un elemento così strategico, un po' come l'approvvigionamento energetico, no? E per cui attenzione, il controllo in mani straniere potrebbe creare dei problemi. Quindi i due motivi che tu elencavi, cioè dei dubbi forti anche sui conti, l'aspetto giudiziario e poi le ricadute future, cioè se veramente che è così delicata il ruolo di chi gestisce la telefonia e ciò che ci viaggia sopra soprattutto, figuriamoci se si può arrivare a un accordo con Telefonica. Fastweb invece mi sembra che si muova su altre dinamiche a questo punto, però forse... Fastweb è sempre il filo conduttore e l'incertezza, nel senso nessuno sul mercato sa, perché non ci sono precedenti, cosa vorrebbe dire il commissariamento di una società che comunque non è fallita. Quindi cosa significherebbe il commissariamento? Un commissario, un osservatore interno, garante, un garante del fatto che sia tutto a posto dal punto di vista sollevato dalle indagini, sì. Oppure un gestore che si sovrappone agli organi aziendali. Certo. È una grossa incognita. Comunque io ti segnalo che mentre siamo in diretta sta succedendo di tutto sul titolo Telecom, cioè abbiamo iniziato un programma 10 minuti fa che perdeva il 3,3 e adesso ha già recuperato 1,3%, cioè è sceso a 2% di calo. Mo si sta rimuovendo, vedo tutti i flash, diciamo, che segnalano sul terminale le operazioni, altissimo livello di compravendita, adesso sta riperdendo un 2,80%, cioè ha fatto meno 3,20, meno 2, meno 2,80 nell'arco di cosa? 10 minuti? Ecco. Non è normale, secondo me qualcuno ha già delle informazioni. No, ma secondo me qualcuno ha già delle informazioni sulla conference call, questo è il mio sospetto, comunque. Vedremo, fra poco inizia, poi magari ci darai degli aggiornamenti. Grazie intanto a Antonello Olivieri del Sole 24 Ore. Grazie. Allora, volete con insistenza il gufo per i bonus degli inglesi? No, bisognerebbe mandargli qualcos'altro, non il gufo alla Royal Bank of Scotland, che si è distribuito 1,5 miliardi di euro di bonus pur avendo ricevuto dai contribuenti britannici 45 miliardi e mezzo di aiuti. Ma andiamo avanti, dai. In America la disoccupazione, i sussidi sono aumentati di 22.000 unità a 496.000, gli analisti prevedevano un calo dei sussidi di disoccupazione a 460. Gli ordini dei beni durevoli a gennaio sono invece balzati del 3%, buono quindi il dato. E poi si diceva delle stime di ripresa fragile nell'area euro. Poi arriveremo anche agli incentivi per i vari settori, alla vicenda Fiat. Ci sono varie dichiarazioni oggi del ministro Scajola, della presidente Confindustria Marcegaglia. C'è anche un'audizione con i calzaturieri per quello che riguarda l'andamento del settore. Però restiamo sul tema europeo e quindi sulle prospettive di crescita economica. Più 0,7% nel 2010 secondo la Commissione europea, fragile ripresa, così la chiama. A trainare sono Germania e Francia più 1,2, tutte e due, cioè entrambe più 1,2%, segue l'Olanda più 0,90%. L'Italia non dovrebbe andare oltre lo 0,70 quest'anno contro le stime del governo all'1,12. Regno Unito più 0,6, invece la Spagna nel 2010 chiuderà ancora in recessione, meno 0,6%. L'inflazione starà all'1,1% nell'area euro, all'1,7% in Italia. Noi continuiamo ad avere mezzo punto percentuale di inflazione in più rispetto agli altri paesi europei perché abbiamo un sistema poco liberalizzato, se possiamo dirlo, molto vischioso nella catena in cui si formano i prezzi, nelle varie filiere dei prezzi, basti pensare all'agroalimentare. Timida definita la ripresa italiana, noi insomma abbiamo chiuso il 2009 con un meno 5%, alcuni di voi mi chiedono al 349-238-6666 come si fa a dire che ci vorranno 5 anni, ma insomma se tu fai meno 5% nella tua attività e poi in un anno e poi l'anno dopo fai più 0,7, uno si fa due conti, e ci metti 4, 5, 6 anni, perché ne riparliamo nel 2013, dai. Timida la ripresa in Italia, dice appunto l'Unione Europea, e sentiamo allora il commissario europeo agli affari economici e monetari, che non è più Joaquín Almunia, è nuovo, si chiama Olli Rehn, è la prima volta tra l'altro che ospitiamo una sua dichiarazione nel programma. Sentiamo Olli Rehn che parla di schiarita ma ancora con nubi minacciose. We have some brighter and lighter elements emerging, but there are still quite some dark clouds. Vediamo emergere alcuni segnali di schiarita, ma ci sono ancora nubi minacciose nel cielo. Forse a maggio, quando diffonderemo le previsioni di primavera, avremo a disposizione elementi più chiari. Guardando al quadro generale, l'economia mondiale appare più forte di quanto previsto tempo fa, ma rimangono incertezze, soprattutto riguardo i mercati finanziari. Gli indicatori sulla fiducia ci dicono che la ripresa è in atto, ma resta ancora fragile. Per riportare l'economia su un percorso di ripresa forte, dobbiamo lavorare sia sull'aumento dell'occupazione, sia sul consolidamento delle finanze pubbliche. Nel settore delle banche la ripresa è in atto, ma anche qui resta fragile. I prestiti alle imprese continuano a diminuire, mentre il credito ai privati ha fatto registrare una leggera ripresa. Ma non si può escludere che la situazione nel settore bancario nel corso dell'anno possa ancora portare a una riduzione del credito a imprese e famiglie. It cannot be excluded that the state of the banking sector could limit lending to firms and households. Insomma, sembra più le previsioni del tempo che un giudizio del commissario europeo agli affari economici e monetari, schiarita ma ancora nubi minacciose, non si capisce bene, nessuno deve mettere l'ombrello, l'impermeabile, può levarselo. Sembra un po' quando dice tempo sereno, variabile, ma con rovesci possibili. Professor Franco Bruni, buonasera. Buonasera. Lei è ufficialmente docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano e scrive anche sulla Stampa, è uno dei... gli economisti che personalmente più apprezziamo quanto a capacità di analizzare i tassi di interesse, le politiche monetarie e l'economia internazionale. Si sente un po' meteorologo anche lei? Grazie dell'apprezzamento. Dunque, sì, come meteorologo, ma... o come economista? No, io trovo apprezzabile questo paragone, nel senso che effettivamente l'incertezza dell'evoluzione dell'economia mondiale è simile al tipo di incertezza che affrontano i meteorologi, che giustamente a volte si lamentano perché noi non siamo contenti delle loro previsioni. E quindi questi numeri noi dobbiamo prenderli anche questi con grande consapevolezza del fatto che si tratta di scommesse. Statisticamente si dice con una forte varianza, questi sono valori medi, ma possono la realtà potrebbe essere molto diversa da questa, insomma. Quindi 0,7 vuol dire che praticamente si va da 0 a magari 1,5, o anche sotto 0. Sì, speriamo che sia più 0. No, beh, sotto 0 no. Allora, l'euro è sul dollaro è 1,35, in questo momento sta scendendo a 1,349. Prima domanda riguarda l'euro, e qui ci spostiamo a chi specula, a chi scommette che la Grecia non resterà un caso isolato. Allora, prima domanda, ma veramente dobbiamo preoccuparci di un euro a 1,35? Voglio dire, abbiamo convissuto con l'euro a 0,90 sul dollaro, a 1,1, perché insomma quando nacque l'euro il rapporto di cambio fu sempre a vantaggio del dollaro per i primi anni, se non ricordo male. Voglio dire, anche se da 1,45 va a 1,35, ma chi se ne frega, no? No, io non mi preoccuperei dell'euro a 1,35, ma delle ragioni per cui i mercati in questo momento non hanno fiducia nell'euro, e nonostante in definitiva la situazione degli Stati Uniti sia nel complesso più squilibrata della nostra, preferiscono tenere dollari che euro. Questo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona in Europa, insomma. Quindi è più il movimento che che il dato secco, mettiamola così. Sì, il dato in sé non... Cioè, un euro a 1,34, voglio dire, visto che tutti ritengono che un rapporto giusto sarebbe la parità 1-1, è ancora un rapporto a vantaggio dell'euro. E andiamo allora alla Grecia. Domani parleremo, ripeto, con le agenzie di rating che si stanno muovendo, vari segnali. Standard & Poor's ieri ha detto, stiamo valutando di abbassare il voto, e quindi lo abbasserà, perché quando un'agenzia dice così poi lo abbassa. da BB+, boh, lo porterà a BB-. Oggi Moody's, l'altra grande agenzia di rating, ha detto: potremmo tagliare il rating della Grecia anche di due livelli nel giro di pochi mesi se il governo non riuscirà a realizzare il piano di rientro del deficit. Secondo me lo tagliano comunque, però. E Fitch, noi invece, la terza agenzia di rating, ha detto: ma non dovremmo tagliare nuovamente il rating, anche se restano negative le prospettive di, sul merito di credito nel medio termine. E Goldman Sachs sta rivedendo numerose le questioni legate agli accordi con la Grecia. E poi, secondo il New York Times, oggi le stesse banche che hanno aiutato la Grecia a mascherare il proprio debito starebbero spingendo la nazione sull'orlo della rovina finanziaria. Allora, noi abbiamo usato un esempio la settimana scorsa: è come se uno ti spaccasse il vetro della macchina con un sasso e poi ti lasciasse un biglietto con l'indirizzo del vetraio, no? Cioè, questi prima li hanno aiutati a truccare i conti, ma adesso scommettono che salteranno per aria. Lei ci crede? Le banche fanno un po' di tutto, diciamo. Da un lato investono e hanno investito indebitandosi a tassi molto bassi in titoli greci per, diciamo, guadagnare il differenziale di interesse, che è stato molto interessante. Dall'altro hanno aiutato un po' la Grecia a mascherare i conti, dall'altro prendono commissioni per speculare per conto terzi su crescenti difficoltà nel rimborso del debito. Insomma, le banche hanno tanti tipi di attività che possono essere anche uno in conflitto con l'altro, anzi è bene che lo siano, perché vuol dire che i conflitti ci sono delle muraglie cinesi e ci sono alcuni pezzi della banca, per esempio l'investment bank, che fa una cosa e magari il resto che fa un'altra. Non è detto che sia un fatto negativo che una banca prenda posizioni diverse. Quello che è certo è che la situazione delle banche è quella che è cruciale per la Grecia, perché tutti pensano ai greci, loro a finanza pubblica, al fatto del debito pubblico, ma in realtà se il debito pubblico greco fosse in mano ai greci, cioè se i titoli di Stato greci fossero presso le famiglie greche, ho l'impressione che non ce ne occuperemo poi così tanto. Insomma, no, è che la Francia ha 80 miliardi, la Germania ha 30 miliardi, noi abbiamo 9. Hanno tanti soldi e fanno pressioni perché in qualche modo qualcuno le salvi anche in questa occasione. Sì. Professor Bruni, ultimo aspetto, perché io non sopporto queste speculazioni, la Grecia è tecnicamente fallita, poi toccherà l'Irlanda, poi il Portogallo, poi la Spagna, i Pigs, l'Italia, no. Insomma, di che cosa stiamo ragionando? Cioè, a me non sembra che in sé il caso greco possa portare, a parte qualche speculazione sull'euro, vabbè, ma a una grossa destabilizzazione del sistema. Lei ha scritto recentemente di questo sulla Stampa di Torino e dice: attenzione, qui più che altro è in gioco la credibilità dell'Europa. Sì, il problema vero è che un po' tutti i nostri paesi, ma non solo quelli che lei ha citato, ma per esempio anche l'Inghilterra, insomma, per esempio in parte la stessa Germania, che non ha una finanza pubblica del tutto a riposo, mancano di un coordinamento centrale. L'Europa non fa il suo dovere nell'accompagnare a una moneta unica un coordinamento più forte delle politiche di bilancio, e, anzi, non c'è per nulla politica di bilancio, ma non solo in Europa, ma neanche negli Stati Uniti. Cioè, questi paesi, questi governi si permettono di avere dei disavanzi, dei debiti enormi e di non proporre ai cittadini dei piani di rientro credibili di lungo periodo. Non c'è bisogno di fare chissà che cosa subito strozzando l'economia con restrizioni fiscali, ma bisogna far vedere alla gente che c'è qualche idea su come fare nei prossimi, vogliamo dire, 10 anni, a far rientrare le cose sul serio, con quali misure, con quali mezzi. È quello che deve fare qualunque impresa quando è troppo indebitata. Mi domando perché non lo debbano fare anche i governi. Perché probabilmente tanto i soldi si trovano, cinesi e indiani sono pieni. Sì, i cinesi e indiani sono gli unici che non hanno la democrazia, gli indiani. Beh, gli indiani no. Però noi abbiamo un po' questo fatto che probabilmente la gente è distratta, guarda alle prossime elezioni, alle piccole cose e non si accorge che ci sono dei problemi di fondo che invece non vengono affrontati, sono quelli di lungo periodo che passano oltre alle prossime elezioni. Le propongo un'ultima così lettura forse troppo ipotetica, ma se convenisse a India e Cina, per citare due casi più eclatanti, che l'Europa e anche l'America non entrassero in una crisi a spirale pesante, perché sennò poi noi non compriamo più i loro prodotti, cioè a loro conviene tenerci in vita, se mi passa il termine un po' forte. Conviene finanziare il debito americano, il 30% del debito americano in mano cinese. Conviene comprare obbligazioni nostre, conviene anche i paesi che producono petrolio, per dirla tutta, perché noi siamo dei grandi consumatori di made in China, di made in India, possono venire qua a acquistare pezzi di fabbrica, possono anche comprare i nostri macchinari. Cioè, loro hanno tutta la convenienza che il mondo occidentale continui a non sentirsi sazio, mettiamola così. Sì, non hanno convenienza a precipitare la crisi, hanno però convenienza a fare pressioni, perché anche noi abbiamo un programma di ristrutturazione che garantisca ai loro investimenti in casa nostra una redditività decente e senza rischi di insolvenza, come stanno purtroppo correndo, insomma, quando comprano alcuni dei nostri debiti. Nel salutare le chiedo una previsione, però, professor Bruni, oltre la Grecia basta? Ci fermiamo con la Grecia? No, io credo che quest'anno vedremo tensioni molto forti nei problemi di finanza pubblica di diversi paesi, che si manifesteranno in modi diversi nei vari paesi. In alcuni casi sarà come per la Grecia, speculazioni anche sul mercato dei titoli di Stato, in altri casi saranno semplicemente tensioni politiche o tensioni finanziarie di altro genere. In alcuni casi, come in Inghilterra, si tratterà forse anche di questioni che si scaricano sul cambio, ma la Spagna è chiaro che deve fare i conti con il suo grande debito e il suo grande deficit estero. Il Portogallo è anche lui messo molto male con la bilancia dei pagamenti, e l'Italia deve riuscire in qualche modo a dare anche lei abbastanza presto il segno di essere in grado di mettersi intorno a un tavolo e fare un programma di rientro della spesa pubblica, perché noi non abbiamo questo grandissimo debito totale mettendo insieme quello pubblico e quello privato, ma la finanza pubblica così nel lungo periodo non è sostenibile. Grazie a Franco Bruni, che appunto insegna economia internazionale all'Università Bocconi di Milano. Arrivederci. E allora, alcuni di voi ci scrivono in merito alla notizia della Royal Bank of Scotland, che pur avendo perso anche quest'anno 3 miliardi e mezzo, si è distribuita 1,5 miliardi di bonus tra i manager, parliamo di euro, ma anche in Italia. Attenzione, la norma che ieri la Commissione di Finanza del Senato ha cancellato era una norma obiettivamente un po' strana, era quella che legava le stock option dei banchieri, agganciava gli stipendi a quelli dei politici. Adesso, con tutta la campagna che stiamo conducendo contro delle stock option dei banchieri, di chi lavora in finanza, che tengono conto dei disastri compiuti, quella norma lì era veramente, veramente un po' peregrina. Comunque, meteo, pubblicità, poi la borsa, anzi Scaiola e Emma Cegaglia sulla Fiat, la borsa che ha chiuso con un 2,3% di calo, Tenaris pesantissimo il calo, meno 11,6%, Unicredit meno 3,4%, peggio di Telecom. Telecom perde 3,1%, ma peggio fanno anche Mediaset, meno 3,3%, e Pirelli, meno 3,3%. Dopo il meteo ci risentiamo. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso per parlare di borsa. Prima però avevo promesso che avremmo dato qualche aggiornamento anche dalla vicenda dell'economia reale, quindi da un lato la parte che riguarda Termini Imerese, ci sono alcune dichiarazioni della Presidente di Confindustria e di Claudio Scaiola, Ministro allo Sviluppo Economico, così come ci sono dichiarazioni di Scaiola in tema di incentivi. Noi stiamo lavorando, il Presidente del Consiglio con il collega Tremonti, per un provvedimento che, con le limitate risorse disponibili, possa essere stimolo per quei settori maggiormente in sofferenza. Oggi è venerdì, abbiamo ancora molto lavoro da fare, mi auguro possa essere pronto per lunedì, ma comunque nel tempo più breve. Così appunto il ministro Claudio Scaiola al microfono della nostra Alessandra Schepisi, interrogato sul tema degli incentivi. Dicevo, Termini Imerese, ha detto la Presidente di Confindustria, la nostra idea è che non si possono tenere in vita stabilimenti improduttivi, bisogna reimpiegare le persone, e qualsiasi scelta che sarà fatta per Termini Imerese deve essere una scelta di mercato. Scajola invece ha aggiunto: siamo pronti a un bando internazionale per Termini Imerese, anche se le manifestazioni di interesse per progetti di riconversione crescono di giorno in giorno e sono arrivate a quota 16. E poi sempre il ministro Scajola ha precisato che il governo sta lavorando per arrivare, appunto, come avete sentito, a un testo per lunedì. Vicenda Alcoa, qualcuno se la ricorda, immagino, lo stabilimento del Alcoa Porto Vesme a Fusina. Allora, possibile un nuovo aggiornamento del tavolo? Si va verso un prolungamento della produzione, quindi come chiedemmo anche molto modestamente al direttore dell'Alcoa quando fu ai nostri microfoni, aspettate un attimo prima di spegnere gli impianti, perché insomma magari si arriva a un accordo. E invece nuove occupazioni si registrano in varie parti del paese. Allora, l'isola dell'Asinara, occupata stamani da 15 operai della Vinilis di Porto Torres, azienda chimica in amministrazione controllata, per la cessione della quale sono in corso trattative tra l'ENI e la Aramco del Qatar. E io devo dire che quando uno riesce a essere ironico in situazioni così difficili ha tutto il nostro applauso, perché gli operai perché hanno occupato l'isola dell'Asinara? Perché hanno detto: sta per iniziare alla RAI l'isola dei famosi, qui all'Asinara noi cominciamo l'isola dei cassa integrati. Si potrebbe fare anche il contrario, mandare quelli dell'isola dei famosi all'Asinara e quelli dell'isola dell'Asinara all'isola dei famosi, ma è una battuta. E poi altri dipendenti, quelli del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona, hanno deciso di rinunciare allo stipendio di febbraio per consentire che tutte le somme dei loro stipendi siano utilizzate per il pagamento delle bollette dell'energia elettrica e per lo smaltimento dei fanghi del depuratore di Sulmona, questo in modo da scongiurare la chiusura dell'impianto. Vabbè, mentre questa è la situazione, adesso noi ci occupiamo di borsa, perché è stata una giornata, devo dire, poi sono peggiorati anche gli altri indici, perché Parigi è chiuso con un meno 2%, Francoforte meno 1,5%, Londra meno 1,2%, la peggiore però per via di Tenaris, Telecom, Unicredit, Fastweb è Milano, meno 2,36%. Allora, la borsa, come sempre con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Chiudiamo subito il cerchio con Tenaris, sospesa più volte per eccesso di ribasso, meno 11,6% il tonfo del titolo, a 15 euro per azione. Allarmano i conti, ma non erano noti, no? Cioè, non è che il settore dell'acciaio sia andato così bene nel 2009 come molti altri settori? Certamente i conti sono, diciamo, era attesa un andamento non troppo brillante, per cui hanno rispecchiato fondamentalmente quelle che erano le attese, ma ha stupito soprattutto l'indicazione sul 2010, perché da più parti, in questa prima parte del 2010, erano arrivate indicazioni su una ripartenza nel business specifico di Tenaris, che è quella appunto dei tubi senza saldatura utilizzati nella perforazione trasporto di gas. Invece la società ha dato un'indicazione di margini che resteranno nel 2010 sulla linea del 2009. E questo ha fatto scattare le vendite da parte di chi era in posizione lunga sul titolo e da parte anche diverse case d'affari, che probabilmente rivedranno le stime sul titolo stesso nelle prossime settimane. Diciamo che inizialmente il titolo perdeva in maniera contenuta, poi il peggioramento dei listini ha portato veramente a vendite molto significative, tant'è vero sono stati trattati 22 milioni di pezzi contro una media di 5 milioni. E questo su Tenaris. Dopo le informazioni sul traffico, Unicredit meno 3,43, Pirelli meno 3,3, Mediaset meno 3,3, Telecom meno 3,1, poi c'è Atlantia meno 3, Exor meno 2,90, Mediolanum meno 2,90, Prismian meno 2,70, come Buzzi Unici, il 2,5 da perso in pregilo, il 2,4 Eni, il A2A meno 2,4%, Finmeccanica meno 2,4%, come il 2% lo perde anche Fondiaria Sai, meno 2,2, Fiat meno 2,1%, e ancora, scusate che chiudiamo la rassegna, Italcementi meno 2,1%, Generali meno 2%, Enel meno 2,07%, Unipol meno 2%. Insomma, chiudiamo con un animale così di buon auspicio. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigione di Telecom e Fastweb. Abbiamo parlato in apertura del programma, poco prima che iniziasse la conference call. Devo dire che stanno uscendo le prime agenzie su Telecom, che ha rinviato la presentazione del piano industriale e dell'approvazione del bilancio. Però ha dato i dati. Maggio operativo lordo a 11 miliardi e 3, ricavi meno 5,6%, indebitamento è a 34 miliardi, come nel 2008. E poi Bernabé, il numero uno, che dice molto soddisfatti dei risultati raggiunti. E poi, per quello che riguarda la vicenda riciclaggio, Fastweb e Telecom Sparkle, ha detto il Consiglio di Amministrazione di Telecom ha immediatamente deciso di assicurare la più ampia collaborazione con la magistratura. Andrea Fontana, al di là di Telecom e Fastweb, l'altra notizia di oggi riguarda Unicredit, di nuovo sotto pressione, meno 3,4, mentre gli altri bancari non hanno fatto così male, eh? Sì, effettivamente Unicredit è stata molto, molto penalizzata, è stata anche molto scambiata con 300 milioni di pezzi trattati, pur non essendo in presenza di una notizia particolarmente negativa, anche se tu appunto ricordavi come anche il resto dei bancari non si sia comportato così. Sì, ma la concorrente Intesa perde lo 0,80, non il 3%, no? Sì, Monte esatto, dei Paschi esatto, perde esatto. L'1,1, cioè Mediobanca l'1,4, lì hanno perso il 3 e passa, no? Esatto, 3,40. Esatto, quindi le posizioni su Unicredit sono state molto più drastiche. Perché? E aggressive. E i motivi non ci sono motivi specifici, sono motivi appunto di mercato, di spostamenti di portafogli di mercato, ma non notizie specifiche. Diciamo che tra i bancari che hanno tenuto, certamente Mediobanca ha tenuto per gran parte della seduta sulla scia dei conti di ieri, le altre hanno fatto ha tenuto soprattutto UBI Banca e Intesa, sì. Ha saputo anche non pagare la notizia che Credit Agricole ha già avviato una procedura strutturata di vendita dello 0,8%. In una battuta, Andrea, l'automatica e Luxottica, gli unici due titoli siamo Mondadori positivi, più 1% l'automatica, più 0,80 Luxottica, il motivo? Luxottica e l'automatica sono state entrambe ben indirizzate da un dollaro ancora in rafforzamento, oggi ha vigiato per quasi tutta la giornata sotto 1,35 e se facciamo caso, oltre ai settori dell'energia, anche gli altri titoli particolarmente esposti sul mercato nordamericano, Bulgari e come Autogrill, sono state tra i migliori di Piazza Affari. È vero, Bulgari infatti ha chiuso in variata e anche Autogrill ha perso poco, lo 0,70, quando il dollaro si rafforza per questi soggetti che hanno buona parte del fatturato fatto in dollari, sono buone notizie. Grazie Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Ma noi restiamo in tema di finanza perché, insomma, come annunciavo, si è chiusa in anticipo il 19 febbraio l'offerta di obbligazioni Enel, che abbiamo raccontato fin dall'inizio. Enel voleva offrire 2 miliardi di obbligazioni, questa volta a tutti i risparmiatori. Le domande sono state così forti che si è arrivati addirittura a 3 miliardi e in sostanza praticamente sono arrivate richieste per quasi 15 miliardi di euro contro i 3 miliardi o poi 4,9 erano complessivi 3 miliardi del mercato retail. E allora complimenti all'Enel, perché insomma già a ottobre lanciò 4 miliardi e mezzo di obbligazioni per gli analisti, per gli investitori istituzionali, tutte sottoscritte. Saluto e ringrazio per essere in collegamento con noi il direttore finanziario di amministrazione finanza e controllo di Enel, Luigi Ferraris. Buonasera. Buonasera a lei. Ma guardi, se andiamo a vedere la composizione della domanda, 2/3 è tasso fisso, quindi direi che forse la visione è un po' diversa, nel senso che c'è un'aspettativa probabilmente di stabilità dei tassi con magari una ripresa più sul lungo periodo, e 1/3 tasso variabile. Quindi evidentemente chi ha comprato i nostri bond ha privilegiato una scelta bilanciata con una maggiore attenzione al tasso fisso, probabilmente attendendosi, come dire, un rialzo dei tassi molto nel lungo periodo. Certamente l'emittente conta, come dire, la solidità di chi ha emesso queste obbligazioni e la capacità di onorare gli impegni, e quindi direi che fino ad oggi sicuramente a questo punto di vista lo ha fatto a pieno anche sul lato dell'equity, quindi non soltanto sul lato dell'obbligazionario. Sì, questo potrebbe essere anche vero, però c'è un'altra osservazione che viene fatta, e cioè in questo momento le obbligazioni dei grandi colossi come vuole l'energia risultano più appetibili rispetto addirittura alle obbligazioni degli stati, e qui forse la variabile Grecia, Portogallo, Irlanda pesa qualcosa. Lei è d'accordo? Si spogli delle vesti di direttore finanziario dell'Enel? Ma non direi, io direi che sono due mercati diversi. Chiaramente le emissioni sovrane, adesso lasciamo stare il caso Grecia che in questo momento è un po' nell'occhio del ciclone, però insomma gli altri paesi europei fino ad oggi mi pare che abbiano collocato bene e senza grossi problemi tutte le proprie emissioni. Direi che magari rientra anche una logica di diversificazione e credo che anche quello che rileviamo, forse un dato che vale la pena di sottolineare, che in questo momento c'è molta liquidità disponibile nel sistema, e quindi evidentemente l'investitore non solo sottoscrive emissioni realizzate dai governi, ma anche corporate, soprattutto quelle più solide, e poi anche quindi tasso variabile e tasso fisso, rientra un po' in una strategia di diversificazione, mi pare. Un'ultima domanda, dottor Ferraris. C'è chi obietta anche al 349-238-6666 che benissimo l'operazione Enel, ma il vostro indebitamento inizia a essere importante. Allora, andiamo un attimo i rapporti, perché voi avete un giro d'affari di 64 miliardi circa, capitalizzate 34 miliardi, ma insomma il giro d'affari di 64 miliardi, utili del 2009 prima delle tasse a 16 miliardi, quindi più 11%, però avete 51 miliardi di debito anche come conseguenza dell'operazione del completamento del controllo di Endesa, 51 miliardi di debito, poi avete fatto un aumento di capitale di 8 miliardi a giugno 2009, avete messo obbligazioni, che appunto significa nuovo debito, da 4 miliardi e mezzo a ottobre, adesso 3 miliardi, insomma inizia a essere alto il rapporto fatturato-debito? Ma mi permetta di fare delle precisazioni, certo. Direi che intanto prima cosa le emissioni che abbiamo fatto non sono nuovo debito, ma sono riqualificazione del debito esistente. Cosa vuol dire? Cioè, avete rifinanziato vecchio debito? Esattamente, abbiamo sostituito debito bancario, che era poi quello che abbiamo utilizzato per acquisire il restante pacchetto di Endesa, per fare l'operazione, per intenderci, di Endesa, abbiamo allungato le nostre scadenze e quindi oggi noi abbiamo una scadenza media del nostro debito che è pari a 7 anni e 2 mesi, e quindi anche l'ultima emissione destinata al pubblico retail rientrava nella strategia di riqualificazione del debito, ossia sostituzione debito bancario con bond. Quindi 10 miliardi di istituzionali circa, più i 3 miliardi attuali che fanno 13, non sono nuovo debito, ma sono semplicemente sostituzione del debito. Diciamo, bancario. 64 perché... miliardi di fatturato su 51 miliardi di debito, non è un rapporto un po' alto? Lasciamo stare. Ho capito che queste obbligazioni, queste emissioni vanno a sostituire vecchio debito che avevate con le banche, quindi invece che con le banche ce l'avete con i clienti che hanno comprato istituzionali nel caso di ottobre, e invece privati e cittadini nel caso di adesso, che hanno comprato queste 3 miliardi più 4 e mezzo, 7 miliardi e mezzo di obbligazioni. Ma il rapporto? Parliamo di rapporti. Intanto i 51 miliardi di debito è quello che abbiamo rilevato a fine 2009, e noi abbiamo un piano di ulteriore riduzione del debito fino a 45 miliardi a fine 2010 per ridurlo ulteriormente nel corso dei prossimi 5 anni, secondo un piano che abbiamo già annunciato e che aggiorneremo il giorno 18 marzo alla comunità finanziaria, quando presenteremo il nuovo piano industriale. Poi se l'altro indicatore importante, lei giustamente confronta il fatturato col debito, ma io confronterei anche il debito con l'EBITDA, quindi con margine operativo lordo che citava lei prima, e quindi noi siamo in un rapporto di poco superiore a 3, che diventerà inferiore a 3 a fine anno, e questo è perfettamente compatibile con un rating A meno che quello che abbiamo. E poi dobbiamo confrontarci anche con il nostro capitale investito, visto che siamo un'azienda che produce energia elettrica, trasporta energia, beh, noi abbiamo 100 miliardi di euro di capitale investito, quindi direi il debito è stata una leva per crescere le nostre dimensioni e per posizionarci a livello internazionale come siamo oggi, adesso stiamo completando il nostro percorso di riduzione e a fine 2010 saremo abbondantemente al di sotto dei parametri richiesti per mantenere l'attuale rating A. Grazie al direttore amministrazione finanza e controllo di Enel Luigi Ferraris. Grazie, buonasera. Allora, adesso il GR e poi parliamo di corruzione, di varie posizioni prese oggi dal Ministro, dal Presidente di Confindustria, anche questa mattina dal Ministro delegato di Fastub, Stefano Parisi, ospite di Oscar Giannino. 349-238-6666 per i vostri sms. di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui torneremo, dopo aver aperto sulla vicina Telecom, il calo in borsa, il slittamento dei conti del piano industriale, anche se i conti poi sono arrivati, dell'approvazione dei conti per essere più precisi, e di Fastub, di Tenaris, molto male in borsa oggi, meno 11% il gruppo, così come altri titoli in una giornata pesante per il mercato. Ci occupiamo adesso di un tema a cui ieri abbiamo dedicato buona parte del programma. Mi riferisco al danno economico derivante dalla corruzione, dalla criminalità. Oggi nuovi sviluppi. Allora andiamo con ordine, perché questa mattina era ospite di Oscar Giannino l'amministratore delegato di Fastweb Stefano Parisi, per il quale non c'è una richiesta di arresto, c'è un avviso di garanzia e tra l'altro insomma un'inchiesta della magistratura. Ricordo, lui è indagato con l'accusa di associazione per delinquere e dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti nell'ambito dell'inchiesta sul carosello, cioè le triangolazioni per far finta di aver pagato l'IVA e portare invece quest'IVA all'estero. Sono 56 invece le richieste di arresto vero e proprio, tra cui quella di Silvio Scaglia, che dovrebbe essere oggi arrivato a Milano, e anche il senatore del PDL Nicola Di Girolamo. Vedo molti messaggi su Di Girolamo, non è un nostro tema. Certo che quando uno dice che non ha mai conosciuto, non ha mai avuto rapporti con la Camorra e poi viene fotografato a feste, torte varie, abbracciato ai boss camorristi, insomma dai. Comunque invece Fastweb, secondo il ministro delegato Stefano Parisi, è azienda di persone oneste e non ha mai avuto fondi neri. Ascoltiamolo oggi, appunto, ospite di Oscar Giannino. Oggi la società, posso assolutamente garantire gli ascoltatori, il mercato, che la società non ha attività di questo tipo, non può avere attività di questo tipo, non ha fondi neri, come invece è stato detto in qualche modo, non ha fatto frodi fiscali per perseguire vantaggi societari. La continuità aziendale è comunque garantita, cioè non bisogna preoccuparsi, ci mancherebbe altro. Insomma, spero bene che non siamo in un paese in cui si chiude l'attività di un'azienda. Quindi tranquilli che l'attività dell'azienda viene comunque garantita. Come l'eventuale commissariamento dovesse essere attuato non c'è dato sapere. Siccome stiamo parlando di una misura cautelare e non di una sanzione, spero che la misura cautelare sia limitata e circoscritta alla verifica e alla supervisione su eventuali reati che l'azienda dovesse fare in questo ambito. Così appunto Stefano Parisi, amministratore delegato del gruppo Fastweb. Di riciclaggio oggi ha parlato anche il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola e la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Scajola, allora una precisazione a chi scrive al 349-238-6666. Sì, nell'intervista che avete sentito nella prima ora del programma al ministro Scajola, relativa a Termini Imerese e agli incentivi, il ministro diceva oggi è venerdì, chiaramente intendeva dire oggi è giovedì. Capita a tutti, capita anche a noi, figurarsi, a tutti, di immaginare giovedì che sia venerdì. C'è voglia forse anche di andare ogni tanto in vacanza, un lapsus. E allora Scajola sul riciclaggio. ogni iniziativa giudiziaria che vuole riportare alla legalità è bene accolta, ma non c'è dubbio che ogni iniziativa giudiziaria ha dei contraccolpi. C'è bisogno di una moralità più forte, ma c'è anche bisogno di non destabilizzare un sistema. E poi la presidente Confindustria Marcegaglia, nell'auspicare che le persone coinvolte risultino estranee ai fatti, ha detto comunque massima fiducia nella magistratura. Prima di tutto noi abbiamo totale fiducia nei confronti della magistratura, abbiamo altresì totale fiducia, auspichiamo insomma che le persone coinvolte possano dimostrare la loro estraneità ai fatti. Vogliamo anche però riconfermare che la stragrande maggioranza degli imprenditori italiani lavora con serietà, nel rispetto delle regole, dell'etica e della legalità, e che in questo momento non va dimenticato che c'è uno sforzo enorme in corso da parte degli imprenditori proprio per cercare di mantenere posti di lavoro e di portare avanti le proprie istanze. Quindi noi abbiamo definito di andare avanti con queste nostre iniziative a favore della legalità. Per questo momento, ripeto, massima fiducia nella magistratura e massimo auspicio e anche fiducia che, diciamo, le persone coinvolte possano dimostrare la loro estraneità. Le iniziative a cui faceva riferimento la Presidente di Confindustria sono soprattutto la decisione di espellere a livello nazionale qualunque imprenditore che risultasse colluso con la criminalità, pagando anche il pizzo, il racket e quant'altro. In questo modo si è estesa a livello nazionale un'iniziativa già presa dalla Confindustria siciliana. Prima di tutti fu quella di Caltanissetta, se non ricordo male, in merito all'IVA Ivano e Lobello, e poi al vicepresidente Cristiana Coppola avrei esteso la cosa alle territoriali del sud. Insomma, lì la mossa dal sud è arrivata. Ripeto, sbaglierebbe chi pensasse che però il problema della criminalità e del rapporto criminalità-imprese sia un problema solo del sud, anzi. Andate a Trezzano sul Naviglio in questi giorni per sapere di più. Ultimo elemento. Ieri alcuni hanno contestato, devo dire non tutti, ci mancherebbe, il tema dell'affrontare a livello economico i costi del riciclaggio, i costi per la comunità e della corruzione. E anche oggi vedo che qualcuno dice: ma insomma, parlate di altre cose. Vabbè, invece noi siamo duri, anche perché il costo del riciclaggio è valutato il giro d'affari intorno agli 88 miliardi di euro, la criminalità pesa sulle aziende del sud per circa 5.400 euro azienda, per un totale di 3-4 miliardi solo di pizzo, e poi la Corte dei Conti ha detto che la corruzione in Italia ha un costo tra i 50 e i 60 miliardi di euro, stiamo parlando di 5-6 manovre finanziarie in una botta sola, se questo non è un tema economico. E poi c'è proprio un danno che forse non è nemmeno quantificabile, che non è solo il costo improprio del sistema, cioè l'appalto che aumenta il valore dell'opera. Da noi infatti le tangenti sono molto più alte che in Francia, lo ricordavamo ieri, il 3% sugli utili in Francia, da noi il 10% sul fatturato. C'è anche un effetto che appunto non si misura, cioè di chi ritiene che l'Italia non sia un paese così, sia un paese troppo rischioso per investirvi. Non a caso siamo al 63esimo posto nella classifica internazionale della corruzione. Dottor Simone Crolla, buonasera. Buonasera. Lei nella vita, cioè come ruolo pubblico, cosa fa? Ma io sono consigliere delegato della Camera di Commercio americana in Italia, che di fatto è come la Confindustria in Italia. Delle imprese americane. Esattamente. Allora, poi andiamo a ascoltare le informazioni sul traffico e poi continuo l'intervista. Ma secondo lei, oltre al danno che la corruzione crea come costo improprio di sistema, ne crea un altro perché in qualche modo allontana gli investitori stranieri, in questo caso americani, dal paese, sì o no? No, io non credo che li allontani, onestamente, però sicuramente c'è un pregiudizio sul rispetto delle regole, sulla serietà di alcune persone che sono preposte a valutare le regole, e questo sicuramente crea un danno d'immagine che può magari far sconsigliare qualche investimento nel nostro paese, ma in realtà non è una valutazione empirica questa, è soltanto, come dire, un'osservazione che si può raccogliere parlando con molti dei CEO delle aziende americane presenti in Italia. Cioè dei numeri uno, perché lei, insomma, lei ha dichiarato un paio di giorni fa: attenzione, meno corruzione ce ne andiamo. Dopo il traffico vorrei capire esattamente i termini di questo annuncio, di questo allarme. 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, vedo intanto un flash di agenzia. Secondo il direttore generale della Confindustria Gianpaolo Galli, l'Italia uscirà completamente dalla crisi economica, cioè tornerà ai livelli di fatturato del 2008 solo nel 2017. Però eravamo rimasti al 2013, qua si sposta in là l'asticella. Comunque, chiedo appunto a chi rappresenta le imprese americane in Italia, il dottor Crolla, cosa vuol dire l'allarme che lei ha lanciato, ripreso anche da alcuni giornali a Milano, immagino sia estendibile al paese: troppa corruzione, meno corruzione ce ne andiamo? Beh, questo è una sintesi giornalistica molto efficace, però non proprio corrispondente al mio pensiero, no? Giustamente è chiaro, è bene dire così, però in realtà io ho detto soltanto che ci potrebbe essere il rischio che ci sia anche, come dire, una manovra di questo genere da parte delle imprese multinazionali americane se tutto quello che si sta scoprendo, che sta venendo fuori in questo giorno, diventasse veramente un fatto sistemico e molto grave. Ricordo ad esempio che l'ambasciatore Spogli nel 2009, quando se ne andò, l'ambasciatore americano in Italia, fece una grande intervista e una dichiarazione pubblica molto forte dicendo: cari italiani, svegliatevi, perché siete un paese che ha delle potenzialità incredibili, però a causa di un sistema farraginoso della legislazione, del mercato del lavoro e anche di una vasta corruzione, insomma, e questo però disincentiva anche alcuni investimenti, ed era un monito puramente pertinente a giudicare anche da quello che sta avvenendo oggi, insomma. America esiste una anti-bribery task force, cioè che è un organismo preposto proprio al controllo di queste situazioni, ma molto temuto, molto rispettato, e quindi dà le cose. Da questo punto di vista funzionano anche. No, ecco, ci tengo a chiederglielo, perché a me fa impazzire quando abbiamo sempre l'America come modello, il liberalismo americano, il libero mercato americano, giustamente, ci mancherebbe anche. Tanti il modello americano, in America non sarebbe possibile, solo da noi capitano certe cose. Però poi quando si va a guardare cosa fa l'America, per esempio, in chi evade il fisco, viene sbattuto in galera, e in chi corrompe, lì l'esempio americano non piace più agli italiani. Allora, mi può raccontare cosa può raccontarmi che cosa capita in America in caso di corruzione, e appunto se oggettivamente la corruzione non è che non esista, ma è a livelli più accettabili anche per la produttività e l'efficienza del sistema economico? Ma sicuramente a livelli, credo, più accettabili. Sicuramente esiste anche la corruzione, esisterà anche la concussione, esistono le stesse cose che esistono qua, ma però c'è un sistema di regole, c'è un sistema legislativo, c'è anche una morale, un costume che, diciamo, già previene questo tipo di comportamenti, e soprattutto, come dice giustamente lei, se vieni colto in flagrante, insomma, sei arrestato. E cosa che abbiamo visto nei casi Enron, nei casi anche Madoff, eccetera, eccetera, quando ci sono situazioni, diciamo, di questo tipo, non proprio di corruzione e concussione, ma sicuramente socialmente allarmanti, chi paga è sempre il vertice della giustizia. Da noi in Italia, ma non solo, si vede che alla fine i grandi capi sono sempre più o meno risparmiati ed è sempre il middle management che viene poi arrestato, eccetera. Però sicuramente la morale anche nella cosa è al primo posto. Obama lo dice in quasi ogni suo discorso, insomma. Anzi, in un recente discorso ha addirittura dichiarato che la corruzione è come una peste, come un disastro ambientale per la società civile. Quindi per loro è una priorità, insomma. Ecco, in realtà lei è in grado di quantificare invece la poca attrattività del paese per le aziende americane, perché insomma, sa, si creano poi anche degli stereotipi, dei luoghi comuni, anche qui io, appunto, noi abbiamo purtroppo dei dati veri, ma non vorrei che poi qualunque impresa americana pensasse: ma io in Italia non investo perché lì se non paghi la mazzetta non ti muovi, è tutto un magna magna. Ecco, cioè, lei li sente questi discorsi nei manager americani che rappresenta, sì o no? Ma guardi, in realtà alle aziende americane l'Italia piace molto, è un paese che ancora per loro, come dire, conveniente dove investire. È chiaro È chiaro che ormai i mercati dove si va a produrre sono altri, insomma, però l'Italia è un paese che non è affatto trascurato dalle imprese multinazionali. C'è questo pregiudizio, come diceva all'inizio, ed è un pregiudizio che spetta a noi italiani far cessare, far dimenticare, superare, insomma. Ascoltavo prima le parole della dottoressa Marcegaglia, ministro Scajola, e sono, vanno nella direzione giusta, dobbiamo però, come dire, perseverare. Le aziende americane partecipano alle gare d'appalto americano, per concludere, alle italiane, però spesso e volentieri si fanno le domande: ma arriverò alla fine, verrò tenuto in considerazione o è già tutto deciso prima? E questo purtroppo è una domanda. Un ultimo aspetto, dottor Crolla, mi racconta come funziona questa commissione anti-bribe, contro le frodi? C'è proprio un segretario di Stato americano che è preposto a vigilare e a sorvegliare ovunque ci sia, diciamo, vicinanza tra privato e pubblico, che tutto si svolga secondo le regole. E, come dicevo, è un organismo molto tenuto, che è nato nel 1977, molto rispettato, e quindi sanno gli imprenditori americani. Ma, concretamente cosa fa? Cioè, va a vedere se c'è un accordo? Perché noi, insomma, abbiamo anche la polizia, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, non è che proprio... Cos'ha? Io credo che più o meno, guardi, mi scusi, credo che funzioni allo stesso modo dei controlli che ci sono in Italia, cioè non si sono inventati nulla di nuovo. È un fatto, come dire, di costume nazionale, di mentalità. Loro sono forse più attenti e più rispettosi in questo tipo di situazioni. Quindi, diciamo, i mezzi sono probabilmente gli stessi, poi dipende come vengono applicati. Mi dica una battuta, lei che appunto rappresenta le imprese americane in Italia, quando poi gli americani dicono ma in Italia c'è molta corruzione, lei cosa fa? Gli dà ragione o nega che sia così? Ma no, io sono il primo difensore del mio paese, per la carità, anche perché so che a loro piace tantissimo l'Italia da tutti i punti di vista. Dobbiamo soltanto valorizzarci un pochino al meglio noi, dobbiamo mettere più in bella mostra le tante potenzialità che abbiamo, cioè ci prendiamo, come dire, forse troppo poco sul sistema, riusciamo a attrarre. Le aziende americane, quando vengono in Italia, pensano di più al brownfield, che significa non costruire qualcosa da zero, ma stare piuttosto che... No, perché da tutto è possibile, certo che per essere presi sul serio occorre anche non avere certe notizie. Comunque, grazie per averci chiarito anche il termine del suo allarme, perché insomma è uscito sui giornali, basta corruzione, ce ne andiamo. Grazie al dottor Simone Crolla, consigliere delegato, quindi numero uno della Camera di Commercio Americana in Italia. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi, buona serata. Radio 24, la passione si sente.